Nuovo in collegamento con una compagna da Bologna. Ciao, ci siamo Ciao. Sentite prima, però volevi aggiungere qualcosa di racconto di quello sì, che hanno fatto le compagne. Perché io prima, presa dalla foga del nervoso che non ci facevano parlare, non vi ho raccontato come poi noi abbiamo proceduto. Noi abbiamo fatto un piccolo corteo, il corteo non c'era, c'era solo una manifestazione in piazza. Noi abbiamo fatto, il nostro gruppo ha chiamato le donne a un piccolo corteo dal Pratello, dalla zona del Pratello, passando davanti al commissariato, dove sono successe anche lì delle violenze sessuali, degli stupri, e quindi siamo passati davanti al carcere minorile e poi siamo passati davanti alla sede della Lega. E quindi abbiamo detto varie cose, abbiamo anche fatto un blocco stradale, quindi volevo dire questo, insomma, che diciamo, intanto noi comunque la nostra manifestazione l'abbiamo fatta e poi dopo per il resto, vabbè, con queste donne secondo me è impossibile fare qualsiasi cosa, perché loro gli basta fare una parata. A noi ci interessa invece di fare politica, insomma, in qualche modo. Senti, ecco, avevate uno striscione? Comunque, eh? Avevate uno striscione? Avevamo uno striscione, che c'era abbiamo scritto? Bloccato il traffico. Che c'era allora, scritto sullo striscione? C'era scritto... Daria, non mi ricordo, perché ce ne avevamo tre. Tre striscioni, va bene, sì. Quindi insomma... va bene, e quindi insomma, comunque... Per noi è andata bene, dopo è chiaro che io tanto si sa, io sono contraria a mettersi con queste altre, perché poi Bologna è una situazione particolare che ci vorrebbe un anno per spiegarla. Insomma, comunque vabbè, dai. Va bene. È andata abbastanza bene, infine. Ok. Va bene. Presto. A presto, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.